Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti scherzi. 24 mattino. Quando sono le 7:19 minuti, quasi tra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, pip, pip, 7:19, signori, questa è la radio ufficiale del vostro tempo mattutino, è 24 mattino e questa è la rassegna stampa, siamo qui pronti a leggere i giornali. Con Peter Bescapè in regia, con Lorenzo Nespoli in redazione, andiamo! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. E anche la nostra regina Elisabetta Fusconi, regina indiscussa del quartiere Isola a Milano, che tra poco arriverà in redazione con noi. Allora, so che mi odierà per questo, giovedì 20 aprile oggi, i titoli... Padoan, no ad aumenti IVA, ora tagli credibili sulle tasse. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Pare dunque che in questo braccio di ferro Padoan Renzi abbia vinto Renzi. Poi l'apertura del Corriere della Sera sulle la legge, approvate le prime norme sul fine vita. Un diritto dire no alle cure. Biotestamento, accanimento vietato, sì all'obiezione di coscienza per i medici. L'apertura anche di Repubblica, biotestamento, legge al via, ma si introduce l'obiezione. La Stampa invece, una regia dietro gli sbarchi record. Si parla di migranti, il governo italiano teme un piano della criminalità libica contro Roma e contro al-Sarraj, leader della Libia, almeno uno dei leader libici. Per il Fatto Quotidiano, schiaffo turco, ma l'Italia porge l'altra guancia. Erdogan vieta la visita del nostro console al nostro italiano, Gabriele Del Grande, che da dieci giorni è detenuto in Turchia. Morire diventa un diritto, è anche l'apertura del giornale, il primo sì alla legge sul biotestamento, chiamiamolo così, mentre la vicenda Grillo, avvicinamento con i vescovi, l'intervista ieri di Grillo ad Avvenire, l'intervista del direttore di Avvenire al Corriere della Sera, è il titolo di apertura per La Verità, la Chiesa si prepara alle elezioni, prove di alleanza Bergoglio-Grillo, mentre Libero, vescovi e Grillo, fidanzati. Questo è il titolo di prima pagina. Fine vita, si può dire no alle cure, anche l'apertura del Messaggero, mentre proprio Avvenire apre sempre su DAT, cioè sulla questa legge sul fine vita, corsa rischiosa, questo è il titolo di Avvenire. Però ripartiamo, riannodiamo i fili dalla polemica, report, la puntata sui vaccini, il Movimento 5 Stelle con il Presidente della Commissione Vigilanza Rai Fico che dice... Se si chiude report invitiamo i cittadini italiani a non pagare il canone della Rai e c'è da dire che effettivamente la sospensione del programma sarebbe una cosa assurda, ecco. Io ripeto, non ho visto la puntata, però da giudicare dalle critiche deve esserci stato un qualche scivolone e va bene, capita, ma chiudere una puntata, chiudere un programma per uno scivolone mi sembra davvero eccessivamente troppo. Per La Verità la presidente della Rai Maggioni dice: nessuno ha mai pensato di chiudere il report, non è passato per la testa a nessuno, il problema non è chiudere o meno un programma, ma è giusto chiedersi piuttosto se sia stato fatto quanto serviva per garantire un buon prodotto informativo. Bisogna rendersi conto che il servizio pubblico ha un effetto dirompente. In questo c'è un po' una critica, si può leggere al conduttore Sigfrido Ranucci, che oggi peraltro fa un'intervista, rilascia un'intervista alla Verità, il cui titolo è «Dal PD un vero attacco politico. Cercano in tutti i modi di delegittimare il nostro lavoro. A chi ci critica e al ministro Lorenzin chiedo perché non ci volete rispondere». Questo nell'intervista di Fabio Amendolara, si difende così Sigfrido Ranucci. Da quando è cominciata questa storia non riesco più a lavorare, dice, visto che il telefono continua a squillare. Tra l'altro risponde anche sull'altra querela che è passata un po' in secondo piano, quella di Benigni, che ha querelato Report per un servizio. Abbiamo tutte le carte, dice lui, non abbiamo mai detto che ha usufruito di finanziamenti pubblici per ristrutturare gli studi di Papigno. I 10 milioni di euro a cui si fa riferimento, in realtà il riferimento è stato fatto dal sindaco di Terni, erano per la bonifica. Noi abbiamo ricostruito che Cinecittà Studios ha rilevato i 5 milioni investiti da Benigni nella società, pur pagandone solo 3,9, come ha precisato in una nota che abbiamo letto il legale di Benigni. Comunque, questa vicenda sui vaccini mette sulla graticola il direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, sotto assedio, questo per La Stampa. Il CDA RAI pronto a sfiduciarlo, e lui che fa? Lui resiste. L'amministratore delegato assediato dai Dem, messaggi chiari ma mollo solo se mi bloccano tutto. Questa è la retroscena di Tommaso Ciriaco. Soprattutto l'intervista del consigliere Rai Guelfi, dato per stretto renziano, che dice ora siamo pronti a votare sempre contro al direttore generale della Rai. Ma Campo Dall'Orto dice non mi dimetto, sostiene in privato, continuo il mio lavoro, certo se me lo fanno fare. Altrimenti andranno prese delle decisioni. Ma racconta Repubblica in questo articolo di Tommaso Ciriaco che lo scontro è davvero altissimo. Tra l'altro, sulla questione vaccini, oggi Alessandro Sallusti sul Giornale firma un editoriale secco, preciso, che io sottoscrivo parola per parola. E scrive Sallusti: questa è stata un'informazione vigliacca, perché si presenta un fatto vero come se fosse il fatto e non un suo spicchio, spesso insignificante. Mi spiego meglio, l'informazione è un po' come la ricerca, trova sempre ciò che cerca, alla pari di scienziati che dimostrano come il formaggio e il vino facciano male e altri l'esatto contrario. Così un giornalista può mettere in fila fatti veri, isolandoli dal resto, che porterebbero a pensare che il Papa sia stato un poco di buono. I fatti, piccole marachelle di una vita, sono veri. La conclusione è falsa, ma il dubbio nel telespettatore resta. Così certamente è possibile trovare su migliaia qualche scienziato, magari in cerca di fama, che sostiene la pericolosità dei vaccini, o pazienti che vaccinandosi hanno subito effetti collaterali, perché qualsiasi medicina o cura presenta questo rischio. Milioni, miliardi di persone salvate a fronte di qualche centinaio, magari migliaio danneggiate. Mostrare le seconde e sorvolare sulle prime non è informare, ma manipolare. Senza contare che parliamo dell'ovvio. Mettiamo fuori legge le macchine perché un'infinitesima parte dei miliardi di persone che le usano muoiono in incidenti? Smettiamo di bere acqua perché il calcare provoca i calcoli? Aboliamo i baci che infettano? Viviamo all'ombra perché il sole fa male? E via dicendo. La verità è che vivere fa male, ma è meglio che morire. Ci sarà un motivo per cui l'umanità ha vissuto allo stesso modo, diciamo a cavallo, per 2000 anni, e poi in pochi decenni l'uomo è andato sulla Luna. Il progresso è in primo luogo figlio delle scoperte mediche, i vaccini, che hanno debellato le epidemie, durante le quali insieme alle persone morivano conoscenze, sapere, esperienza, e ogni volta si doveva cominciare da capo. Ieri una collega di La 7 in diretta si chiedeva: voglio sapere cosa succede a mia figlia se la vaccino. Giusto, ma dovrebbe soprattutto chiedersi cosa succede se non la vaccino. E la risposta c'è: all'80% di probabilità di beccarsi, almeno nella sua forma più lieve, il papilloma virus. Se si vaccina, invece, ne ha una su 1 milione di avere effetti collaterali. Basta scegliere. E mi sembra che siano parole, come dire, definitive. In tutto abbiamo trovato il caso oggi sui giornali di cronaca anche dell'infermiera che vaccinava per finta. Sembrano veramente cose assurde, ma c'è una infermiera accusata all'ASL di Treviso. Per la verità c'era stata un'inchiesta, è stato tutto archiviato. All'ASL di Treviso un'infermiera che buttava di nascosto le siringhe con dentro il vaccino. Per cui i bambini non piangevano, non piangevano, non li pizzicava con la punturina. Il giudice ha archiviato, ma per l'azienda sanitaria di Treviso c'è un mistero sui motivi per cui avrebbe agito questa infermiera accusata di buttare via il siero e buttare via il vaccino e quindi non vaccinare i figli. Va bene. Signori, saltiamo sulla scuola, che è un tema sempre molto caldo, un tema sempre molto seguito. C'è l'OCSE che ha fatto un rapporto sugli studenti, soprattutto gli studenti quindicenni, gli adolescenti italiani. Il rapporto è, per estrema sintesi, sono ragazze e ragazzi socievoli, gli italiani, capaci di fare amicizia con i compagni, ma sono anche molto ansiosi, proprio l'ansia da scuola, l'ansia da oddio non sono preparato, oddio non sono preparata, prendo un brutto voto. I test in classe e i voti sono le bestie nere, secondo questo rapporto OCSE, che dice lo studente italiano è super ansioso. E poi sono iperconnessi, tanto da stare male se non c'è campo, come dei rabdomanti a cercare il campo nel senso del cellulare non prende. Lo studente italiano è super ansioso, titolo del giorno che dedica due pagine dal titolo Stress tra i banchi. Anche Avvenire, Italia, quindicenni ansiosi e sempre connessi. L'85% di loro teme di prendere brutti voti. C'è anche questa cosa, la qualità della vita, il benessere giudicato dagli stessi studenti in una scala da 0 a 10. Gli italiani si attestano allo 6,9. La media dei paesi OCSE rilevati, 35 paesi, è 7,3. Quindi i giovani italiani, quindicenni, manifestano un gradimento della propria vita di tutti i giorni sotto la media europea. E va bene, abbiamo un gruppo e abbiamo i nostri figli stressati per la scuola. Signori, ma questo è l'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo da mani sul volante se siete alla guida, l'articolo da appoggiate tutti gli oggetti contundenti adesso che state facendo colazione. Libero. Fa pipì nel vicolo, 10.000 euro di multa. Maxi sanzione a un 19enne, che forse sarà stressato come i 15enni studiati dall'OCSE dopo questa multa, ma lui si giustifica, i bar erano tutti chiusi. Claudia Osmetti racconta di una notte di fine febbraio nei vicoli di Genova, dove quando Marco, studente 19enne, esce da un locale, non ce la fa più, deve fare un bisognino, si gira, guarda, i bar sono tutti chiusi, anche quello da cui è appena uscito, e quindi la fa lì, per strada, ma passano i carabinieri e lo beccano e lo pizzicano e gli arriva l'altro giorno la multa a casa. Lui apre sbianca, 10.000 euro. All'inizio pensavo di aver visto male e invece era tutto vero. Mi rivolgo a diversi avvocati, ma mi dicono tutti è meglio pagare, si può fare ricorso, ma le speranze di vincere sono pressoché zero. E dunque, aiutato dal papà, mette mano al portafogli. Fortunatamente, se paga entro 60 giorni, ha un bello scontone di un terzo e quindi paga 3.333,33 euro per una pisciatina. Non è possibile una roba del genere! Vergognatevi, cazzo! Questo Milan mi fa sognare! Mi fa sognare questo Milan delle informazioni! Vabbè, io lo so, basta, vi prego. Devo fare un appello pubblico. Non cominciate adesso a mandarci tutte le sigle al 349-238-6666 legate ai cinesi del Milan. Per favore, dai, fatelo con i cinesi dell'Inter, almeno. Ecco. Allora, però non sono male. Smettetela anche voi. Allora, dobbiamo parlare del biotestamento. È l'apertura per molti quotidiani. Ieri alla Camera è iniziata la votazione della legge sul testamento biologico e tra gli emendamenti approvati quello che vieta esplicitamente l'accanimento terapeutico. La norma introduce la possibilità per il paziente di abbandonare il trattamento terapeutico. C'è scritto, infatti, il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o rinunciare al medesimo e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale. Però viene riconosciuta, per quel che riguarda gli aspetti deontologici, pur non parlando la legge espressamente di obiezione di coscienza, si riconosce al medico la esenzione appunto della responsabilità civile e penale e comunque l'obiezione di coscienza, come racconta Margherita De Bach a pagina 2 del Corriere della Sera è implicita, non paragonabile in nessun modo a quella prevista dalla legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, ma viene chiarito che il medico è appunto esente da responsabilità civile o penale, fermo restando che l'assistito non può esigere cure contrarie alla deontologia professionale. Per il 5 Stelle, per esempio, è una forma di obiezione mascherata che può creare un vulnus sull'impianto del provvedimento. Anch'io la vedo, cioè, come una cosa un po' a tre quarti, no? Sì, il diritto a rifiutare le cure, il malato potrà interrompere il trattamento, per esempio l'idratazione, la nutrizione, ma il medico può rifiutarsi, non è obbligato a eseguire. E allora come se ne esce? Cioè, il rischio è che ci siano situazioni in cui cambia, ma non troppo. In ogni caso, viene intervistato su Repubblica Beppino Englaro, il papà di Eluana Englaro, che a pagina 2, intervistato da Piero Colaprico, dice: finalmente le future Eluana non resteranno intrappolate. La questione ridotta all'osso è che Eluana aveva idee molto chiare e solide sulla vita che ben conoscevamo, e quando poco prima dell'incidente ci ha scritto la lettera di Natale, parlava della nostra famiglia come di un nucleo basato sul rispetto e l'aiuto reciproco. È lei che ha portato al massimo livello la sua richiesta di diritti fondamentali. Il suo è diventato il caso costituzionale più importante di questi tempi. Dice Beppino Englaro: oggi l'Eluana di turno può evitare di farsi intrappolare, finita la prima fase dell'emergenza, in cure che non servono a nulla. Può pronunciare, insomma, la persona il famoso no, grazie. Il lascia che la morte accada. Allora i medici dicevano che la non vita o la non morte stavano nelle loro procedure, quindi nessuno poteva cambiare le cose. Ma mai dire mai. Per mia figlia ci sono voluti 17 anni e 22 giorni, 6.233 giorni, e oggi siamo a oltre un quarto di secolo, ma lo scorrere dei decenni resta sopportabile se si pensa che ogni evoluzione ha i suoi tempi, ogni cittadino dal basso può andare fino in fondo nell'esercizio dei diritti. E tra l'altro dice: questa nuova legge ricalca proprio la storia processuale di Eluana moltissimo, dice Beppino Englaro, che dunque si dice soddisfatto. In ogni caso, la legge sul biotestamento va avanti, arriverà poi al Senato e vedremo. Tra l'altro, l'altra notizia politica del giorno, se volete, è proprio quella che si notava ieri qui in rassegna stampa, il fatto che Avvenire intervista Beppe Grillo, una pagina di intervista, lo stesso giorno il direttore d'Avvenire rilascia un'intervista al Corriere della Sera, nella quale intervista dice in sostanza che per tre quarti gli elementi del Movimento 5 Stelle, gli elementi di programma, sono vicini al mondo cattolico. In serata la frenata, Famiglia Cristiana che critica. Guardate i giornali, Libero titola in prima pagina: prove di alleanza Bergoglio Grillo. Il Manifesto titola in prima pagina: il Movimento 5 Stelle è un grande avvenire. E La Verità titola in prima pagina: prove di alleanza Bergoglio Grillo. Sì, questo l'ho detto. No, Libero invece: vescovi e Grillo fidanzati. Ecco, Libero era questo, ancora più esplicito. E tutti i giornali si interrogano su questo. Il Movimento 5 Stelle e i cattolici: dialogo in salita, scrive Repubblica. Vicini sui poveri, ma i temi etici dividono. Avvenire apre mentre Famiglia Cristiana frena. E tra l'altro ieri i vescovi, la CEI, hanno costretto in qualche modo una sorta di passo indietro il direttore di Avvenire, Tarquinio, Marco Tarquinio, che ha detto: parlavo a titolo personale. E oggi Marco Tarquinio pubblica tre lettere tra le tante, come lui stesso ammette, arrivate anche di critica ad Avvenire, e ribadisce a pagina 2 nelle sue risposte: non ho mai parlato a nome del mondo cattolico, perché non lo faccio mai, e non solo perché non ne ho titolo, e già questo basterebbe, ma perché non voglio farlo e non ritengo giusto farlo. Avvenire al servizio della libertà dei lettori, e il direttore di Avvenire è al servizio di questa causa, perché questo gli chiede l'editore del giornale, e non di impancarsi a portavoce, che altri ne pensino, o a grillo parlante. e qui preceduto da puntini, ovviamente riferimento allo stesso Grillo. So, aggiunge Tarquinio, che in ambito ecclesiale ci sono curiosità e attenzioni, ma forse ancora più perplessità e preoccupazioni nei confronti del Movimento 5 Stelle. E so che non tutti la pensano, oggi come ieri, come me, sulla possibilità e la necessità di dialogare nella chiarezza con tutti, con i grillini, i democratici, gli azzurri, i leghisti, la destra, la sinistra. Dialogare che non vuol dire sponsorizzare, ma prendere sul serio. Vabbè, insomma, una difesa e comunque le polemiche ci sono. Lo stesso Di Maio dice: ora non definiteci la nuova Democrazia Cristiana. In tutto questo, signori, allora, l'IVA aumenta o non aumenta? Ieri Padoan, in questo confronto che tutti i giornali raccontano, anche pare abbastanza teso all'interno del governo e tra il Padoan e l'ex premier Renzi, ieri Padoan ha detto stop al rialzo dell'IVA. Ma come? Aveva detto in un'intervista al Messaggero che si poteva ipotizzare una sorta di scambio, cioè aumentiamo l'IVA, però abbassiamo il cuneo fiscale, quindi diamo più soldi in busta paga, per cui compensiamo così. Ieri in un intervento pubblico, Padoan ha detto che in realtà era un'ipotesi, ecco, era un'ipotesi come tante, e probabilmente è un'ipotesi evidentemente che verrà accantonata, perché Padoan, e qui pare vincere la linea renziana, ha ribadito che ci sarà uno stop al rialzo dell'IVA nel 2018. Quindi oggi, 20 aprile, l'IVA non aumenta. Ieri forse, domani chissà. Mauro Meazza però sa tutto, fortunatamente, quindi ci può dire come stanno le cose. Buongiorno, ma, Mauro. Ma buongiorno caro Alessandro. Beh, come hai ben riassunto tu, effettivamente ieri in audizione dal Parlamento il Ministro ha detto no, era un'ipotesi, ho fatto un'ipotesi, però, come dire, vediamo. Ci abbiamo pensato, ce la facciamo. Servono, mi pare, 19 miliardi e mezzo, sto leggendo, sì, da Gianni Trovati sul Sole 24 Ore di oggi, che riassume appunto anche le cosiddette, le possibili misure alternative. Tu hai 19 miliardi, no, e mezzo, Alessandro, no, quindi non sei tu che hai messo i 19 miliardi e mezzo. No. Vabbè, li metteremo tutti un po' per uno, visto che tu non collabori, allora toccherà farlo noi, tu sempre i soliti due eurini, immagino. Sempre, eh? Sempre, che è già tanto. Vabbè, allora guarda, dal Sole 24 Ore ancora, attenzione però, perché il Fondo Monetario Internazionale ci ha detto che abbiamo ancora troppi crediti deteriorati, dovresti pagare quando ti prestano i soldi, dovresti restituirli. Ma ieri camminando per strada ho trovato un euro per terra, se vuoi posso dare già il 50% del mio contributo così. Al Ministro o al Fondo Monetario Internazionale? Scegli tu. Per le banche che non riesco a rientrare. Vabbè, tu metti lì l'euro che vedrai che qualcuno poi riesce a utilizzarlo al meglio. Oh, però ti voglio dire, ci sarebbe qualcosa da spendere, perché se leggi oggi dalle pagine di Imprese Territori, che tu leggerai come sempre scrupolosamente, non interrogo oggi perché sennò mi arrabbio poi, sì, ecco, capirai che dovremmo spendere circa 2 miliardi e mezzo all'anno per la manutenzione delle strade. È vero. Ecco. Non ho neanche quelli, guarda, te lo dico prima. Non hai neanche quelli, vabbè, comunque per il momento spendiamo più o meno un quinto, 450 milioni. Effettivamente i recenti casi di cronaca e di crolli, insomma, stanno a testimoniare che forse di questi 2 miliardi e mezzo ci sarebbe bisogno. Oh, ti consiglio, poi ti ricordo, mi permetto di ricordarti che oggi, essendo giovedì, è giovedì giusto? Oggi? Sì, oggi è giovedì. Ah, ecco. Bene. Il giorno del triplete della Juve, hai visto che grande, ottimo il triplete. Sì. Bravo. Facciamo i complimenti alla squadra. Beh, una Champions League è una affermata, sì, sì, si è chiuso, altro che remontata, l'hanno fatto la desmontata praticamente. Adesso mi hai distratto, oggi è giovedì, sì. Io devo stare attento al calendario. È giovedì, sul Sole 24 Ore, oggi ci sono le pagine di Casa 24. Ad esempio, puoi capire se funziona o meno questa formula del rent to buy, sai, questo affitto a riscatto, detto malamente. Ecco, te lo riferiscono sulle pagine di Casa 24, avanza lentamente perché ancora funziona poco. Stai leggendo intanto la tua dichiarazione precompilata? L'hai scaricata dal sito delle entrate? No. No, non la stai leggendo. Perché non la stai leggendo? Io ho già detto ieri che devi leggerla, adesso non hai detto che vai in ferie 10 giorni, 20 giorni, quanti giorni stai via adesso? No, lunedì e martedì. da lunedì e martedì, però poiché sabato e domenica non lavori, fanno vabbè, 4 giorni. Sì, certo. Vabbè, allora qualcun altro lavorerà al posto tuo, ovviamente. Allora, visto che hai tempo, leggiti la dichiarazione precompilata, ma porta con te quello che oggi riportiamo su Norme e Tributi, cioè quali verifiche devi fare per... prendi la dichiarazione, la leggi, però devi leggerla anche con un granello di sale, per così dire. Un'ultima cosa per gli amici avvocati: attenzione se sul sito mettete, sul sito dello studio, i nomi dei clienti, perché la Cassazione ha detto che non si può. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, buone vacanze. No, domani ci sei ancora? Sì, sì. Ah, incredibile, me ne compiaccio. E allora a questo punto, traffico! Alessandro Milan, il marchio Alfa dell'informazione. Allora, dai, sorvoliamo. In prima pagina della Stampa c'è questa apertura che torna sul tema migranti. Sapete che sono sbarcate 8.500 persone nel giro di 3 giorni a Pasqua. E allora ecco che Francesco Grignetti lancia l'allarme da parte del governo italiano. Una regia dietro gli sbarchi record. L'impennata di sbarchi nei giorni di Pasqua ha avuto l'effetto di un'onda tellurica nelle stanze del governo. Non è normale che dai porticcioli libici partano 8.500 migranti in poche ore. Un pullulare di barconi tutti insieme che ha preso il mare ed è andato incontro alle navi umanitarie. Un concatenarsi di eventi che ha messo in ginocchio il sistema di accoglienza in Italia e che nelle stanze del governo ha generato il sospetto che questa escalation non sia stata casuale. Ed è più che un sospetto, viene definita un'azione logistica quasi di stampo militare, fuori dal comune. Dunque un'azione sicuramente concertata. Chi sono i registi? Beh, si teme che la grande criminalità organizzata della Libia voglia in qualche modo minare il ruolo del premier Sarraj, che noi sosteniamo, colui che si è impegnato con l'Italia a fare qualcosa contro gli scafisti. Ma non si perde di vista anche il secondo protagonista di questa vicenda, ne abbiamo parlato varie volte, le navi delle organizzazioni non governative. Chi sono i veri finanziatori? Da dove giungono le loro navi? Quali inconfessabili accordi potrebbero avere alcune organizzazioni? A queste domande, sapete che c'è anche un'inchiesta della Procura di Catania che indaga, le ONG si difendono e tra l'altro possono ora portare a loro discolpa anche la testimonianza della finanza, perché il generale Stefano Screpanti, capo del terzo reparto operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza, ascoltato dalla Commissione Difesa del Senato, ha detto nessun legame tra le ONG e i trafficanti. Questo è messo in evidenza da Avvenire, a pagina 6, il generale della Guardia di Finanza smentisce le accuse sui soccorsi privati in mare. E dunque c'è questa diatriba, c'è questa polemica che però continua. E oggi trovate sui giornali l'apertura della Stampa e una pagina di Avvenire che vi segnalo. In tutto questo, visto che si parla sempre di povertà, abbiamo parlato di reddito di inclusione nei giorni scorsi, oggi vi segnalo la pagina del Manifesto 5, Roberto Ciccarelli. C'è questa cifra che fa sempre impressione, non dimentichiamola, 7,2 milioni di poveri, di persone in grave difficoltà in Italia, a rischio soprattutto anziani e bambini. E scrive il Manifesto: i numeri sono impietosi. Contro la povertà il governo ha stanziato 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018, ma per istituire un sussidio strutturale contro la povertà assoluta, che in Italia colpisce 4,6 milioni di persone, servirebbero 7 miliardi all'anno. Questo elemento è stato trascurato nell'analisi del DEF, forse a causa del clima pasquale, scrive il Manifesto. Però c'è poco da festeggiare. La deprivazione materiale, quindi dati Istat in cui vivono 7.209.000 persone censite dall'Istat, sono l'11,9% delle famiglie. Deprivazione materiale di beni di consumo necessari a vivere. E questa cifra teniamola bene in mente. Sono ormai 11 giorni invece che Gabriele Del Grande, 34 anni, blogger, che stava regista, documentarista, stava facendo un libro al confine tra Turchia e Siria, è stato fermato dalle autorità turche e ora si alzano i toni da parte della Farnesina, il Ministero degli Esteri italiano, a dire ridatecelo, riconsegnate. Non ha fatto nulla, stava facendo interviste, dalla Turchia arrivano delle strane accuse, parlava con i terroristi. La verità è che il ministro degli esteri Alfano chiede il rilascio del regista detenuto in Turchia, l'avvocato non è riuscito a vederlo, a incontrarlo, quindi negato anche un diritto elementare, basilare, negata la visita dell'avvocato. E sui giornali, fortunatamente, finalmente, noi 2 giorni anche con Oscar Giannino che diciamo, insomma, facciamo qualcosa per questo, teniamo alto e vivo l'interesse per Gabriele Del Grande che, ripeto, ha 34 anni e da 10-11 giorni detenuto in Turchia senza accuse, se non queste, parlava con i terroristi, e in realtà era lì a fare il suo lavoro. E speriamo davvero che si risolva questa situazione e che l'Italia si faccia sentire in maniera abbastanza vibrante. Sull'attualità internazionale invece voglio leggervi il buongiorno di Massimo Gramellini oggi, perché su Trump è abbastanza spettacolare. L'invincibile trumpada, questo è il titolo. Il caffè di Gramellini prima del Corriere. Ricorderete quando prima di Pasqua il presidente Trump annunciò solennemente che un'armada molto potente stava facendo rotta sul Mar del Giappone per mostrare i muscoli al ciccio bomba atomico della Corea del Nord. Le persone impressionabili non ci avevano dormito la notte. Ora si scopre che l'armada del Trump fluttua da giorni nelle acque australiane in direzione opposta. Fioriscono le ipotesi più disparate. Può darsi che la portaerei abbia perso la bussola, sarebbe una notizia. O che l'abbia persa Trump, questa lo sarebbe di meno. La spiegazione più plausibile è che neppure i Marines diano retta alle sparate di gel di carota e ormai prendano i suoi ordini per battute di spirito. Anche se non si può escludere a priori che Trump intendesse davvero invadere l'Australia per ragioni sue, dissidi sull'import-export di canguri, per esempio, e abbia usato il dittatore amico di razzi come diversivo per rassicurare gli americani, ma soprattutto i canguri, il Pentagono ha confermato che l'armada sta effettivamente viaggiando verso il Mar di Giappone, ma l'ha presa un po' alla larga, come quando in auto imposti sul navigatore l'indirizzo di tua suocera dall'altra parte del viale e quello ti fa imboccare l'autostrada del Brennero. Abbiamo la ventura di abitare un'epoca in cui l'uomo più potente del mondo manda le navi nel mare sbagliato e il suo rivale asiatico spara missili che gli ricadono sul malleolo. Forse esploderemo, ma in una sonora risata. Speriamo. Intanto, sulla stampa c'è la carta costa. Mi è venuto da tossire. Una pagina intera sulle sirene. Sulle sirene, perché sapete cosa succede? Ci sono in tutta Italia i corsi di mermaiding, cioè mamme e papà che insegnano le loro bambine a nuotare con la coda in piscina come le sirene. Ma chi se ne frega!